Ovviamente saluto Michele Ainis, benvenuto Michele. Eccomi, buongiorno. In collegamento da Roma, Michele Ainis è costituzionalista, insegna istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma 3, editorialista da tanto tempo del quotidiano La Stampa, ha scritto diversi libri, l'ultimo pubblicato da Garzanti si intitola Chiesa padrona. Insomma, il titolo mi sembra che non lasci spazio ad equivoci. Michele, che dici? Almeno dal tuo punto di vista, dico, quello che volevi evidentemente raccontare in questo saggio. Diciamo, è uno degli angoli da cui si può prendere questa questione della laicità quando incontra una confessione religiosa che in Italia poi è maggioritaria, ma che ha anche il privilegio singolarissimo, unico nel panorama internazionale, di essere eretta a Stato. Noi abbiamo chiuso nel 29 la questione romana, e quindi con i Patti Lateranensi, di cui abbiamo celebrato gli 80 anni proprio poco nel mese fa. Di febbraio. Allora, questo però dovrebbe porre una serie di vincoli agli interventi, non dei cattolici in quanto tali ovviamente, ma delle gerarchie vaticane sulla nostra vita pubblica, sulla nostra agenda politica e, come succede ormai spesso, anche sull'agenda parlamentare. Bene, questo è il libro di Michele Ainis. Io però, come al solito, sfrutterò, diciamo così, tra virgolette, l'ospite per sottoporgli varie notizie di questa settimana, di questi giorni, varie questioni controverse, altre curiose, bizzarre, proprio per avere ogni volta, qui non ci sono più le mezze stagioni, una chiave di lettura diversa, no? Il personaggio è estremamente diverso, donne, uomini, diversa formazione, diversi schieramenti o trasversali, eccetera, eccetera, e quindi che danno il loro punto di vista sulle cose. 800 24 0024. Io intanto butterei lì, come al solito, proverei a sintetizzare almeno qualcuna delle tantissime cose che sono successe. Beh, intanto ricordiamo che domani è l'8 marzo, giornata internazionale della donna, più che festa, chiamiamola così, giornata internazionale della donna. E visto che ci sono tra l'altro nuovi casi, non ci mancano mai ormai. Sempre stato così, insomma, un po' tutte le latitudini, le violenze sessuali anche nelle ultime ore. Questo per rispondere forse anche a qualcuno che continua a dire: ma in fondo che ce ne facciamo, ormai non serve più la giornata della donna, sarebbe bello che non servisse più, vuol dire che saremo a un altro passo di civiltà. Poi la questione molto discussa questa settimana di donne e pensioni, l'età pensionabile, l'aumentiamo o non l'aumentiamo, prima sembrava di sì, poi bisognava rispondere all'Unione Europea a questa richiesta, poi ci sono state le polemiche, comunque poi ne parleremo. La crisi, ovviamente la crisi è sempre al centro delle notizie della settimana, anche quella ovviamente che riguarda gli Stati Uniti. A febbraio, è notizia di ieri, sono stati persi in America 651.000 posti di lavoro, e da quando mi pare sia entrata in recessione sono 4 milioni e qualcosa i posti di lavoro persi negli Stati Uniti. Poi sempre dall'America questa notizia che viene da una decisione di Obama di rimuovere lunedì i limiti posti da Bush sulla sperimentazione sulle staminali embrionali. Poi la Corte Penale Internazionale dell'AIA, che ha accolto la richiesta di mandato d'arresto nei confronti del presidente del Sudan Omar el-Bashir, accusato di crimini di guerra contro l'umanità nel Darfur. E visto che Michele Ainis è un giurista costituzionalista, poi mi interesserà soprattutto fatti di questo tipo italiani, internazionali, sottoporgli, poi ci dirà lui, insomma, su cosa si vuole soffermare. La controversa vicenda dei due romeni accusati dello stupro sulla ragazzina di 14 anni alla Caffarella di Roma in Brasile, ed è riportata su alcune prime pagine oggi, questa bambina di 9 anni che è stata violentata dal patrigno in Brasile, e i medici l'hanno fatto abortire e i vescovi hanno scomunicato questi medici. Poi l'imprenditore Romeo, il principale indagato nelle indagini sugli appalti a Napoli, che è stato scarcerato. Poi, per chi volesse parlare di calcio, le intemperanze di Mourinho, il tecnico dell'Inter, insomma ce n'è per tutti. Michele, tu in particolare in questo momento c'è un qualcosa dei fatti che ho elencato o di altre cose che ti sono rimaste impigliate nei pensieri sulle quali ti vuoi soffermare un momento prima di passare ad altre cose? Ma è direttamente collegato ai temi di questo mio libretto di cui abbiamo appena parlato, la vicenda della bimba brasiliana rispetto al quale interviene una scomunica. Ora, Io ho letto per esempio con interesse il commento che ha fatto oggi su Repubblica Adriano Sofri. Sì, la prima pagina. Quale in realtà non ha fatto un commento, ha raccontato i fatti e ha alla fine aggiunto: beh, adesso si tratterebbe di commentarli, non è possibile farlo, tratteniamo il fiato. Perché cioè, io credo che ci sia, come dire, un distacco, un divorzio tra la sensibilità dei cattolici e comunque in generale dei cittadini del terzo millennio e questo tipo di intransigenze dottrinali che poi non so quanto facciano bene al favore di cui la Chiesa riesce a godere. Mi pare che gli ultimi dati Eurispes segnalassero un crollo di fiducia da parte degli italiani nella istituzione Chiesa Cattolica, che è sempre stata ovviamente molto popolare. Mi ha fatto impressione qualche settimana fa una copertina dello Spiegel che aveva salutato l'elezione di Papa Benedetto XVI dicendo: Papa siamo noi tutti, perché un tedesco, no, al soglio pontificio, e che invece qualche settimana fa se ne usciva dicendo ci vergogniamo, no? Allora probabilmente, ecco, insomma, sarebbe davvero molto utile per rasserenare il clima e gli animi avere una, da parte di tutti e anche da parte di noi laici forse, una sensibilità maggiore alle ragioni altrui. Elena da Napoli è la prima ascoltatrice di oggi al numero verde 800 24 00 24. Grazie Elena di essere qui, così rompiamo il ghiaccio. Buongiorno. Buongiorno Elena, ciao. Niente, io volevo, siccome pochi giorni fa, pochi sere fa facevano vedere per televisione, hanno fatto vedere un intervento del popolo romano lì a, mi pare, a, non mi ricordo la zona, comunque queste donne romane che vivevano coi bimbi nei container da una vita dovevano in quegli stessi container fare anche un campo e dare posto quindi ai nomadi, ai rumeni, cioè secondo me io lascio ai posteri l'altra sentenza, è tutto assurdo quello che sta succedendo. Non c'è bisogno, mi senti? Sì, sì, ti sto sentendo. Quindi stavi parlando di questa situazione a Roma paradossale. E tu che stai chiamando da Napoli, Elena? Io sì, guarda, sono rimasta sconcertata. Ma perché? Presente, qualche politico dice la situazione andrà meglio, andrà bene. Io credo che oggi la politica entri ovunque, anche nel Festival di Sanremo, nelle canzoni. Allora io a questo punto dico, ma cioè, senti, ma Napoli com'è la situazione? È migliorata o no negli ultimi tempi? No, diciamo che quando esco fuori casa vedo zingari che prendono cose dalla spazzatura e le buttano per aria. Poi se salgo su con l'autobus al Vomero ci sono, mi sento di stare in America. Io sono a Napoli. Diciamo, è una zona un po'... Ah, in questo senso dice, no, pensavo al Vomero perché è una zona un po' più... No, no, ma diciamo che è tutto, posso salutare, un casino, ma perché veramente... Io dico provare per credere, ecco. Grazie Elena. Grazie, salutaci Napoli. C'era un ascoltatore che forse è caduto, come si dice in gergo tecnico, diciamo così, 800 24 00 24, quindi gli stavo dando spazio, però invece colleghiamoci con l'altro pianeta. Riflessioni da Marte. D'accordo, per il momento sarà pur solo una proposta, ma una proposta indecente, non meno di quella fatta a suo tempo da Robert Redford a Demi Moore. Si propone per il momento che le donne del pubblico impiego vadano progressivamente in pensione a età più mature, sino a raggiungere i 65 anni d'età. Perché questo? Ma in nome della parità tra uomo e donna, naturalmente. Ah, e il resto della parità? Il resto mancia. Quando si proporrà infatti anche di parificare le possibilità di accesso alle donne al mondo del lavoro? Quando si parificheranno gli stipendi tra uomini e donne con uguali meriti e stesse cariche? Quando è che si parificheranno il numero di uomini e donne nei luoghi di potere, nelle stanze dei bottoni, nella rappresentanza politica? E quando ci si appellerà alla parità tra donne e uomini nel prendere i periodi di maternità e paternità per accollarsi gli oneri, oltre che gli onori della prole? E quando ancora si parificherà il tempo dedicato al pesante e non retribuito lavoro familiare casalingo, il tempo e l'impegno dedicato alla cura verso i genitori anziani, a quelli verso le persone disabili? Non sarebbe meglio e straordinariamente più giusto pensare a una parificazione dell'età pensionabile tra uomini e donne solo quando si saranno prima realizzate nell'italico paese le condizioni minime per una vera parità come hanno fatto in buona parte gli altri paesi europei? Sarà ancora solo una bozza, per carità, ma l'importante è che non diventi un ennesimo bozzo sulla testa delle donne. Rieccoci, Michele, ricordo sempre il numero verde 800 24 0024. C'è, ecco, l'abbiamo ripreso, Gianni da Lugano. Gianni. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, Gianni. Scusate, io sono in macchina, quindi se l'audio è un po' particolare, vi chiedo scusa. No, non io ti volevo intervenire. Ma dimmi una cosa solo, Gianni, tu sei uno di quei pendolari che fanno Svizzera, Lombardia, Lombardia, Svizzera tutti i giorni o no? Sei proprio di Lugano? Sono di Lugano, abito a Lugano, però avendo la compagna che abita a Milano faccio spesso avanti e indietro. Ah, perché tu sai che almeno negli ultimi periodi si è molto parlato, no, di questo pendolarismo di persone che abitano in genere in Lombardia, che lavorano in Svizzera perché ci sono condizioni migliori, perché si guadagna un po' di più, no? Sì, ma c'è anche il viceversa, ci sono anche molti che abitano a Lugano, addirittura lavorano in Italia, specie nelle posizioni dirigenziali, per esempio. Ah, bene, quindi insomma c'è una par condicio, diciamo uno scambio reciproco. Scambio. Prego, Gianni. Allora, io volevo intervenire sul discorso delle cellule staminali di Obama. Sì. Essendo parte in causa, perché sono il direttore di un'azienda di cui si sta parlando moltissimo ultimamente, che manda nei paesi asiatici i pazienti a fare le terapie con cellule staminali. E non si può nominare questa azienda? Sì, è la Beike di Lugano, è collegata con la Beike appunto cinese, che penso che sia il punto di riferimento per l'Asia intera per quanto riguarda le cellule staminali, le terapie con cellule staminali. Mm. Ora, indipendentemente dal discorso che facciamo noi come Beike, la scelta di Obama è quantomeno discutibile, nel senso che comunque è risaputo che le cellule staminali embrionali hanno un alto rischio di trasformarsi in un tumore. Difatti è proprio della settimana scorsa, di due settimane fa al massimo, la notizia di questo ragazzo israeliano che è stato trapiantato in Russia credo 4 anni fa e ha sviluppato due tumori. Però vabbè, questo è un caso, purtroppo come sempre ci vuole tutta una casistica, no? Lungamente da studiare, certo, per anni. Mm. Certo, però comunque è risaputo che c'è un'alta probabilità. Tra l'altro è una mossa anche abbastanza inutile, perché ormai si sta parlando di cellule pluripotenti indotte, sanno il futuro praticamente delle cellule staminali. Noi utilizziamo le cordonali, quindi quelle da cordone ombelicale per le terapie. Mm. E, mentre le cellule pluripotenti indotte sono cellule adulte che vengono riportate, riprogrammate e riportate allo stadio embrionale, quindi avviare adesso la ricerca sulle cellule staminali embrionali è quasi inutile. Tra l'altro è stata fatta molta disinformazione, perché si parlava di George Bush che aveva bloccato l'intero settore. No, invece non è vero, perché comunque lui, George Bush, incoraggiava la ricerca sulle cellule staminali cordonali, così come fa il Vaticano. Io le dico, dopo un servizio televisivo che ha fatto le Iene il 27 di febbraio, noi siamo stati letteralmente inondati di richieste e soprattutto di mail che se la prendevano contro il Vaticano. In realtà non è assolutamente vero anche questo, questa è una cosa da far sapere. Il Papa ha sempre incoraggiato la ricerca sulle cellule staminali cordonali che non prevedono la distruzione di un embrione. No, questo è chiaro, Gianni, poi appunto dal tuo punto di vista di competente in materia, forse si ritiene che quelle embrionali possano aprire orizzonti più ampi. Certo, c'è sempre il discorso etico su questo, molto controverso. Comunque ti ringrazio moltissimo, Gianni, di essere intervenuto. Tu stai andando a lavorare in questo momento o stai andando? No, io in realtà lavoro sempre, perché sono sempre attaccato comunque al computer, però sto cercando di andare a fare un weekend quasi tranquillo, ma essendo sempre collegato ai vari... Gianni, non fai benissimo però, non so se mi hai sentito la settimana scorsa, avevo riportato quella ricerca secondo la quale se si superano le 50 ore settimanali di lavoro si rischia la demenza, quindi io te lo dico. Ma guarda, allora probabilmente sono già nella categoria della demenza. No, non mi permetto, è una ricerca americana, io la riporto giusto così come monitor. Guardi, di ricerche che vengono diffuse con notizie sballate ce ne sono a profusione, e noi le riportiamo, poi ognuno le prende con le pinze naturalmente. Grazie Gianni. Grazie a voi. Ciao Gianni. Di nuovo insieme, Roberta Giordano sempre con voi sino alle 15. Ogni tanto mi capita il sabato anche di ricordarmi e di ricordarvi che se volete essere, come spero, ancora in mia compagnia, se ne avete voglia, la domenica ci sono ancora in onda alle 19, dalle 19 alle 19.30 con Storielle. Domani sarà mia ospite la campionessa del mondo di pugilato pesi mosca italiana, Simona Galassi, che è anche molto simpatica, questo alle 19. Però noi ritorniamo oggi, ritorniamo alle notizie della settimana. Sempre mio ospite in collegamento è Michele Ainis, costituzionalista, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma 3, editorialista della Stampa, autore di diversi libri, tra cui quest'ultimo per Garzanti, Chiesa Padrona. Prima di dare spazio ai moltissimi ascoltatori, quindi cercherò di tenere un po' i tempi sintetici, Michele, vuoi su quanto è stato detto sinora intervenire? C'è qualche commento che vuoi fare, qualche osservazione? Ma forse una battuta su quello che ci raccontava il nostro ascoltatore itinerante, no? Che Gianni da Lugano, sì, ecco. Parlava di staminali. Ma ecco, io non ho alcuna competenza per stabilire se la ricerca sulle staminali embrionali sia o no in grado di portare dei vantaggi, non lo escluderei. In ogni caso io credo che non si possano e non si debbano porre limiti alla ricerca in quanto tale, alla ricerca scientifica. All'applicazione delle ricerche scientifiche è un altro paio di maniche, perché ogni scoperta scientifica ha in sé del bene e ha in sé anche del male, dipende da come viene usata. La stessa energia nucleare ci può far riscaldare casa o provocare esplosioni, no? E peraltro i vincoli, i limiti, i veti alla ricerca finiscono in questo mondo che si tiene tutto insieme, che è globalizzato, per essere dei limiti per i deboli, per chi non può permettersi dei viaggi, come è accaduto in Italia dopo la legge sulla fecondazione assistita, legge 40, che ha fatto scattare il turismo procreativo. Quindi io credo che davvero sia sbagliato invocare dei limiti in questo campo. Allora, ritorniamo al numero verde 800 24 0024. Luca da Milano. Pronto? Luca, eccoci qua. Buongiorno, è un piacere essere in sua compagnia. Grazie, piacere essere in vostra compagnia, in tua compagnia. Ci diamo del tuo o ti sembra poco, che dici, poco urbano? Guarda, per me è ottimale la Bene, cosa. Anche per me, allora siamo d'accordo. Diamoci del tu, Luca. Perfetto. Sì. Senti, io è la prima volta che ascolto la tua trasmissione perché ascolto i tuoi colleghi in orari diversi, specialmente nel ritorno verso casa. E ahimè, lo scrittore precedente, a livello di demenza, ciò che tu hai detto, credo di rientrare anch'io in quella fascia, quindi mi sa che ti disabilito il modem a casa. Non volevo diffondere il panico. comunque, insomma, c'è anche il resto della vita, no? È giusto lavorare, è anche un dovere, un diritto, però... Ahimè, a me piace lavorare, quindi per me è una malattia, piacere... devo far sempre qualcosa. E allora mi costringi a chiederti che lavoro fai, Luca, se ti guarda, piace così tanto. Io lavoro presso una multinazionale e faccio il venditore esterno, quindi l'account, come si può dire. Giro molto, sono sempre collegato, i clienti chiamano anche durante i periodi di festa, quindi, Natale, Pasqua, ma a me piace. Sì. Vabbè, Natale, Pasqua fortunatamente è per gli auguri molte volte, ma ahimè per le fine della scadenza di alcuni contratti. E ti chiamano anche il 24 di dicembre alle 8 di sera. Però ricordati che c'è anche altro, solo questo. Va bene. Senti, dimmi. Io volevo intervenire perché sono stato invitato da te a commentare anche quelle notizie chiamate silenti, no? Quelle notizie che bene o male non fanno la prima pagina. Ma in me ha scaturito una cosa diversa, cioè andare oltre alle informazioni silenti, proprio a quelle informazioni che non vengono date. Cosa voglio dire? Che noi siamo fortemente borbandati di notizie negative. Ma io mi sono fatto una domanda, ma in quanti milioni siamo su questa terra? In quanti siamo? Quante che esistono di positive possono essere scritte, commentate, analizzate, e queste fare un livello di contagio positivo da chi, per chi ascolta. Ma si parla sempre del risparmio energetico, ma quante piccole che esistono, dei piccoli centri urbani hanno adottato energie alternative che nessuno sa, e questo può essere fotocopia per qualcun altro. Quindi tutte queste notizie positive, ci sarà qualcosa di buono, certo, ahimè, mannaggia, in certamente questo mondo, perché non viene comunicato? Perché fa più notizia e fa più soldi forse la notizia negativa che commentare una notizia positiva? Ma guarda, posso dirti, Luca, scusami se ti interrompo. Prego. Che questo è un vecchio dibattito, no, sul fatto di provare a dare le notizie positive. Qualcuno si è concentrato proprio con delle pubblicazioni o anche delle trasmissioni tutte le notizie positive. In realtà poi probabilmente il riscontro, il consenso, non so, il seguito era un po' minore, ed è vero purtroppo che intanto le notizie negative anche sono moltissime, basta guardare anche soltanto nel nostro paese in questa settimana, ma poi se guardiamo al mondo intero, e hanno effettivamente, creano più interesse, Luca, forse perché le altre danno un po' per scontato, si spera sempre che ci siano un po' di sottofondo, e poi però quello che è più roboante, che ha più eco, sicuramente sono le notizie un po' più preoccupanti, insomma un po' più negative. Senti, Luca, io ti dico la verità, io sono un goloso di notiziari, ascolto sempre, guardo spesso i TG e cerco di guardarne abbastanza differenziati per farmi un'idea forse un po' più concreta, più ampia. Ma sono arrivato a un punto, ma come me anche tantissimi amici o persone che ci stanno ascoltando, cioè cambiano trasmissione quando arriva il telegiornale. E ahimè, la cosa brutta, ieri sera mi sembra una trasmissione, ho visto che le notizie che fanno veramente, che poi la giustizia persegue e quindi e dà un lucchetto all'azione negativa, è una trasmissione come Striscia la Notizia. A me viene il brivido. Cioè, noi siamo borbandati da tantissime cose negative e vengono perseguiti soltanto da un giornale satirico. Allora, io mi dico, ma è assurda questa cosa. Allora, visto che questo funziona, allora proviamo a utilizzare una parte del vostro tempo. Io vi invito, no? Vi invito a utilizzare una parte del vostro tempo e dire la notizia positiva di oggi e la sparate alla massa. Va bene, Luca, ti ringrazio di questo consiglio, di questo suggerimento che è sempre molto valido. Poi bisogna un po' metterci sì in questa cosa. Bisogna calarsi nell'obiettivo, naturalmente, sì, vedere lo scopo. Questo è naturale. Comunque, grazie per avete dato la possibilità di intervenire ed è una piacevole trasmissione. Grazie molte, ciao Luca. E ciao. Anche questa è una buona notizia, se vogliamo. Marco da Milano. Eccoci qua. Eccoci Marco. Sono anch'io in viaggio. Lo sento in sottofondo i rumori tipici del movimento in automobile. Ma tu sei su un'autostrada o almeno su una strada provinciale? Perché sento No, sono su un'autostrada. Sì, ecco, infatti. Sentivo un andare abbastanza di crociera, ecco. Sì, infatti. Prego Marco. Allora, io volevo andare un po', cioè volevo vedere il giorno della donna da un altro punto di vista. Sì, domani, 8 marzo. Sì, domani, però da un altro punto di vista, nel senso che è vero che ci sono tanti problemi che devono essere ancora risolti, devono essere ancora superati, quindi ci manca un'equiparazione sotto tanti punti di vista e molti sono stati citati prima. Sì. Però è anche vero che io direi che più che la giornata della donna, io direi la giornata sarebbe da ricordare la giornata nella quale per la quale purtroppo avvengono un sacco di soprusi, un sacco di violenze, non solo nei confronti della donna, ma anche nei confronti di uomini o di bambini, dove io, a meno che io ricordi, non mi pare che ci sia il giorno della serie del bambino o del giorno dell'uomo, ma questo non perché queste persone o perché la donna non debba essere ricordata per tutti i motivi che sono legittimi, eccetera, ma semplicemente perché molto spesso, queste violenze o certi comportamenti avvengono nei confronti della donna come anche nei confronti di altri. Marco, se posso interromperti, scusa, sì. Intanto nessuno vieta ovviamente, ma credo, non mi ricordo se sia, bisognerebbe chiedere, informarsi con Amnesty International se c'è un giorno dei diritti umani, ma credo di sì, che ricorda la carta che era stata firmata appunto nel dopoguerra sui diritti umani internazionali. Ma in realtà la differenza diciamo originaria nel mondo, tra gli esseri umani, è prima di tutto, ancora prima che essere poveri, ricchi, neri, bianchi, ebrei, musulmani, cattolici o di qualsiasi altra religione, è quella di essere donne e uomini, e continua a esserci comunque una enorme disparità, non soltanto in paesi sviluppati come il nostro, occidentali, dove continuano le violenze sessuali, c'è disparità salariale, c'è disparità di carico del lavoro familiare, domestico, dell'accesso al lavoro, quindi continuano a essere anche in paesi così avanzati, diciamo, grandi le differenze. Ma a livello mondiale continua a esserci comunque soprusi e una cultura fortemente maschilista e patriarcale di un genere sull'altro, ed è sempre unilaterale questa situazione, per questo è macroscopica. Poi ci sono mille altri soprusi, violazioni eccetera, ma comunque il giorno dei diritti umani, la giornata internazionale sui diritti umani, questa credo di ricordare che ci sia, anzi se qualcuno se lo ricordasse può suggerirlo all'800 24 0024. Marco, ti saluto, ti auguro buon viaggio. Sempre insieme, almeno così mi auguro, io sono qui con voi, Roberta Giordano, ospite oggi, qui a Non ci sono più le mezze stagioni, Michele Ainis, costituzionalista, giurista, docente all'Università Roma 3, autore di libri, tra cui l'ultimo, Chiesa Padrona. E molte le vostre telefonate, adesso spero di riuscire a dare il maggior spazio possibile, 800 24 0024, il numero verde a cui potete chiamare. Prima si parlava con Marco, spesso ritorna questa cosa, perché ci deve essere giornata internazionale della donna, lo vediamo anche solo in Italia. Italia, con quello che succede tutti i giorni, dicevo, a parte le violenze sessuali, questo segno costante, continuo di bestialità proprio ferina, primitiva, sembra veramente di non aver fatto nessun passo anche i paesi occidentali come il nostro da questo punto di vista della pari dignità tra donne e uomini. E poi dopo il filo conduttore è la differenza salariale, la non stessa possibilità di accesso alle professioni, il diverso carico di lavoro familiare, il comunque considerare di categoria A e categoria B. Poi, se proprio vogliamo fare un brevissimo giro intorno al mondo, ma sarebbe veramente troppo lungo, sono notizie di oggi, per esempio in India. L'India è uno dei paesi dove quasi una giovane donna su due è una sposa bambina, quindi date ancora bambine, neanche adolescenti, ancora prima della pubertà, uomini molto più grandi di loro. In Bangladesh, in Afghanistan continuano anche ad acidificare le donne, gli uomini quando si stufano, c'è qualche problema o sono gelosi, si usa molto per esempio gettare l'acido muriatico sul volto delle donne, è un fenomeno questo delle donne deturpate dall'acido. Ma lo stupro, che è usato come arma di guerra anche in molti paesi ancora dell'Africa, in tanti posti del mondo, però ripeto, basta fermarsi anche a un paese occidentale come il nostro, non è che bisogna andare chissà dove. Fra l'altro, Michele Ainis, io ti volevo chiedere cosa pensi del fatto che Tremonti, per me un po' sorprendentemente, però mi ha fatto piacere, ieri ha detto, a proposito della questione delle polemiche di aumentare l'età pensionabile delle donne e varie altre cose, ha riconosciuto: le donne sono le vittime, non gli artefici, di questa crisi economica, perché è soprattutto dovuta all'avidità degli uomini di potere, che sappiamo stanno in un po' tutte le stanze dei bottoni a livello poi finanziario, economico, mondiale. Di donne seguivo un'interessante inchiesta del TG1 di notte, tempo forse una quindicina di giorni fa, dove si diceva che veramente le donne si contano sul dita di una mano a livello mondiale, nei posti che contano non solo in politica ma in finanza, in economia. Quindi, no, che cosa pensi di questo, di quanto detto finora, Michele? Beh, è così anche in Italia, oltre che in paesi lontani e con culture diverse dalla nostra. Intanto vorrei dare un'informazione che tu stessa avevi chiesto a tutti gli ascoltatori, dato che mi pare Marco aveva proposto. Ah sì, se esiste la giornata, mi pare proprio di sì, qui si ricordano, ecco, i diritti umani. Estendiamola non solo alle donne, ma anche ai giovani, a tutti quelli. Allora, c'è una festa dei giovani ed è il 12 agosto, ma se qualcuno spigolasse nel sito del Consiglio d'Europa, di feste ne troverebbe per tutti i gusti, insomma, dalla giornata dei vegetariani a quella dei rom piuttosto che degli infermieri. Negli Stati Uniti c'è anche un giorno dedicato alla festa della suocera, il 22 ottobre. Ora, qui il problema però non è la festa della donna, ma la festa alla donna. E la festa alla donna, insomma, quello che succede è che sul piano della parità formale le donne hanno ormai raggiunto rispetto agli uomini la parità. Non era così in passato, fino agli anni 50 per esempio era precluso alle donne il concorso in magistratura. C'erano una serie di fossili nel nostro ordinamento giuridico di cui poi, anche grazie alla Corte Costituzionale, per esempio fino al 1969 era vietato, era reato l'adulterio femminile, quello maschile no. Insomma, c'era il delitto d'onore, no, che era giustificato proprio per se una donna era stata... C'è una vicenda, io la racconto sempre ai miei studenti per anche dimostrargli quanto sia il diritto legato al tempo e alla stagione storica. Nel 1961 arriva alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della punizione del solo adulterio femminile che era previsto dal codice penale. E la Corte dice, beh no, effettivamente è ragionevole, perché altro è l'isolata infedeltà del marito, cito testualmente perché mi ricordo le espressioni usate dalla consulta, altro è che la moglie conceda i propri amplessi ad un estraneo, e quindi è giusto punire e castigare la seconda e non il primo. E non stiamo parlando di chissà quanti secoli fa. Stiamo parlando del 61. Poi la stessa questione ritorna 8 anni dopo e la Corte fa retromarcia e dice no, via questo reato. Perché? Perché nel frattempo c'era stato il 68 e quindi con la carica di così liberatoria che ha portato il 68. Ora, noi abbiamo modificato negli ultimissimi anni per 2 volte la Costituzione italiana per introdurvi a livello regionale e poi a livello statale il principio delle pari opportunità, cioè delle chance in più al soggetto più debole, in questo caso penalizzato culturalmente e socialmente, che è la donna. Che sia penalizzata la donna, voglio dire, lo dimostrano per esempio una cosa che ho letto di recente e che tu stessa mi pare ricordavi. È la questione dei salari? Sì, sì. Il 16% in meno, sì, c'è lo come minimo. Lavoro. E poi le donne rettore sono il 3%, le parlamentari sono il 9%, e le elette, le elettrici il 52%. Quindi, e così se volessimo elencare, insomma, andremo avanti parecchio. Quindi c'è qualcosa che non torna. Allora, rispetto al problema pensioni, in astratto, posto che le donne peraltro vivono anche più di noi maschietti, parrebbe insensato un'età pensionistica differenziata tra donne e uomini, però c'è da tener conto di questa penalizzazione reale che nel vissuto di tutti e di tutte, insomma, si incide, che ha bisogno di un risarcimento. Proprio per, dicevamo, per il carico familiare, per il fatto di non avere lo stesso accesso alle professioni, la maternità spesso purtroppo in Italia è penalizzante, no? Si dice le donne non fanno figli, poi però quando fanno figli dopo, se tornano al lavoro, vengono accantonate oppure comunque si fa un po' di pressione, vengono demansionate, insomma la situazione, diciamo, persiste. Ridiamo voce alle ascoltatrici e agli ascoltatori. 800 24 00 24 c'è Anita da Reggio Emilia. Io vi ringrazio per la pazienza, che so che ce ne sono ancora diversi in attesa, scusate, ma insomma riuscire a parlare un po' di tutto e dare spazio a tutti non è sempre facile. Anita, prego. Buon pomeriggio Roberta. Buon pomeriggio a te. Io vorrei parlare della costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Sì. Ieri sera infatti, sempre su Radio 24, ho ascoltato il programma che è condotto dal dottor Cruciani. E a questo proposito sono intervenute tantissime persone, e per giustificare poi il mio parere e sentire il vostro, io ne elenco solamente 3, ma in modo molto breve. Un signore di cui purtroppo non ricordo il nome, che è un responsabile di coloro che lavorano nel campo dei trasporti, affermava che questo ponte non è poi il toccasana dei trasporti per andare in Sicilia, perché ci sono mezzi abbastanza veloci e tutto sommato, piuttosto che spendere i soldi che dovremmo spendere, forse sarebbe meglio rinunciare. Un altro, l'ingegner Calzone, mi pare che si chiamasse così, che lavora questo progetto addirittura dal 1980, in una persona coltissima e molto esperta anche, ha affermato che forse basterebbe un pochino di umiltà e costruire il ponte a due campate invece che una sola, si spenderebbe infatti la metà di quello che invece si dovrebbe spendere. Io penso che forse, non so, i politici lo sapranno meno, io non lo sapevo, comunque forse loro, non lo so. Poi il terzo è stato l'intervento che per me è stato meraviglioso, di Sgarbi, che ha parlato dal punto, lui è un esteta, quindi ha parlato dal punto di vista della bellezza, del fatto che noi non dobbiamo sempre puntare verso la corsa, l'arrivismo, ma dobbiamo puntare invece, lui diceva, sulla lentezza, guardare bene i panorami. E poi la Sicilia, diceva, è un'isola, quindi ma perché vogliamo fare i collegamenti con la terraferma? È un'isola, ricordiamoci, e quindi l'attesa di vedere quelle bellezze che la Sicilia ha, se viene prolungata già un pochino, non è poi male. Ma quello che mi ha colpito di più è stato l'intervento di un signore che giustamente chiedeva al dottor Cruciani, ma secondo me ci sono delle priorità, ma quella del ponte è una priorità in questo momento? E il dottor Cruciani ha risposto, guardi, io non sono d'accordo con lei sulle priorità, assolutamente non sono d'accordo. Allora io sono rimasta allibita, ho detto, dunque, ho pensato, in un momento del genere, in cui il nostro paese ha una crisi che è enorme, lo dicono tutti, lo dicono anche i politici, è vero, si afferma da tutte le parti, noi ci perdiamo tempo a parlare, a progettare di un ponte che anche se fosse necessarissimo come costruzione, non dovremmo assolutamente farlo, perché abbiamo della gente che ha fame, abbiamo della gente che perde il lavoro e Berlusconi dice che non è possibile aiutarli perché non abbiamo i soldi. Allora abbiamo i soldi per costruire il ponte. Io proprio sono rimasta di un male, non lo so, io dicevo ma chi pensa in un modo giusto in questo paese? Anita, no, è chiarissima la tua considerazione, il tuo punto di vista, e ti ringrazio. Che tempo c'è, Reggio Emilia? Oh, è bellissimo. Bellissimo, un sole splendido, oggi sembra primavera, E dopo allora anche a Milano stranamente sembra primavera, fa quasi caldo, infatti poi lo chiederemo dopo, Anita, al colonnello Giuliaci, se poi hai voglia di ascoltare ancora. Ti ringrazio, Anita. Grazie, ciao. Ciao Anita. Do spazio, c'è Silvia da Bolzano, sempre al numero verde 800 24 00 24. Silvia. Pronto, sono io. Sei proprio tu, Silvia. Qui c'è un rimbombo, io ho la radio chiusa. E dove sei? Non lo so, forse ecco, dipende dall'ambiente. No, io ho la radio chiusa, adesso non lo sento più. No, neanche io. Sì, allora, io sono venuta per un altro argomento, però rapidamente vorrei dire alla signora che ha detto prima di andare in viaggio in Sicilia e poi aspettare anche 3 ore l'imbarco per l'altra parte. È una cosa defatigante e i siciliani, i trasporti, per esempio, delle arance, delle cose, o si fanno in aereo, si fanno con l'autocarro, costano di più. Dunque questo è già un motivo per mettere un raccordo più veloce tra la Sicilia. Anche se Anita parlava più di priorità che non di opportunità. Sì, ma no, forse, priorità però è questo, perché qualsiasi lavoro pubblico dà lavoro. Vabbè. E dando lavoro dà guadagno. Dunque questa è una cosa che si deve prendere in considerazione. Beh, mi fa piacere che abbiamo sentito due ascoltatrici con due punti di vista. Un altro argomento. Sì. Dunque, per riguardo alla donna, tutte le cose degli svantaggi della donna si sanno, io adesso non le ripeto perché le avete detto tutti voi, però non avete messo in mostra, in collegamento con la faccenda per esempio della fecondazione assistita, il fatto che la donna in questa tremenda situazione della fecondazione assistita è merce di scambio. Cioè, da una merce, l'ovulo, io ti do un figlio, a tutti i costi, senza ragionare sopra, così. Beh, la donna è messa dentro e ci sono enormi guadagni in tutto il mondo su questa cosa. La donna è dentro. Ecco, questa è una cosa, appunto perché non si riflette su che cosa si fa. Dunque, io quando c'è stato il referendum per la legge 40, quindi sulla fecondazione assistita, sì. Io sono cattolica profonda, ma non è che io ho votato in un modo perché me l'ha detto il Papa. Io mi sono informata. Ho scritto a due università, quella di Milano e a quella dei Gemelli di Roma, l'Università Cattolica, e mi sono fatta andare del materiale. Poi mi sono informata all'ospedale qui di Bolzano. Dunque, prima di tutto ho saputo cose che non sapevo. L'embrione, quando è formato nell'atto, quando lo spermatozoo entra nell'ovulo, è già segnato sessualmente, perché è l'uomo che col suo cromosoma Y dà il sesso al nascituro. Silvia, guarda, ecco, allora volevo dire questo. Sintetizziamo, allora, si dice, perché ho la viabilità. No, volevo dire, finisco subito. Sì. Perché siete entrati in argomento, perché ha telefonato uno dalla Svizzera. Allora, l'embrione è un'entità unica, ogni embrione non è uguale all'altro. Lo so, Silvia, però qui, ecco, rischiamo di riandare. E allora si mette la donna dentro questo vortice che neanche lei sa cosa succede. Silvia, io credo però che su queste cose poi bisognerebbe veramente dedicare molto più spazio, approfondire, dedicare solo così uno spot o comunque un breve momento a una riflessione su questa cosa, ecco, non è tanto pertinente in questo momento, perché sono le varie notizie della settimana e questo è un argomento di ben altra portata e che non è, insomma, strettamente in questi giorni, diciamo, d'attualità. Ritengo comunque che sia una questione legata alla libertà, all'autocoscienza femminile, questa. Poi ognuno naturalmente ha la sua opinione su questa questione. Dici, sono nel vortice le donne di questa mercificazione. In realtà, se una donna lo decide lei personalmente, se vuole o non vuole un figlio, è lei, insomma, la protagonista di questo atto, e chi altro altrimenti. Eccoci sempre insieme, Roberta Giordano con voi, tantissimi gli argomenti. Se riuscite, proprio mentre siamo un po' addirittura d'arrivo, a essere un pochino più sintetici, al numero verde 800 24 00 24. Tra l'altro, a proposito di tempo, e abbiamo sentito adesso le notizie della viabilità, c'è questa ricerca di questa settimana dell'ACI, Automobile Club d'Italia, secondo cui code e rallentamenti non solo sono dannosi, e lo sappiamo, i nervi degli automobilisti, donne, uomini che siano, io ne so qualcosa perché ci metto un'ora per arrivare al lavoro tutti i giorni, quando poi la notte per ritornare indietro un quarto d'ora, insomma, sono dannosi per i nervi degli automobilisti, ma rimangono intrappolati nel traffico cittadino anche praticamente con le tasche. Ammonta infatti a oltre 40 miliardi di euro il costo del tempo perso in città a causa del traffico tutti i giorni. È una ricerca fatta su un campione di quattro città: Roma, Milano, Torino, Genova. E Roma, per esempio, in testa con 252 ore sprecate all'anno, Milano con 237, una vita passata in macchina. 800 24 00 24. Michele Ainis, sempre ospite di oggi, qui non ci sono più le mezze stagioni. C'era qualcosa su cui volevi intervenire? Ma forse potrei aggiungere una battuta sul ponte di Messina. Abbiamo, sì, ascoltato due opinioni dissonanti. Sì. Siccome Messina è la città in cui alcuni secoli fa sono nato io stesso, allora... Beh, un siciliano. Ma proprio, sì, proprio... E vive a Roma, insomma, e va in giro per il mondo. Ecco, com'è che sia, e certamente avrebbe un impatto devastante. Quel tratto di mare lì, che fu cantato da Omero al tempo, subirebbe questa impronta gigantesca, questo ponte lungo 3 chilometri che sale fino a 64 metri di quota, i cui lavori durerebbero nel migliore dei casi 12 anni, e che non è detto che sia né un modo più economico di attraversare lo stretto. E più veloce, secondo te? Ma guarda, allora, intanto lì quella è una zona battuta da venti molto forti, e per almeno 30 giorni l'anno il ponte rimarrebbe chiuso. Certamente in condizioni normali l'attraversamento, ma si potrebbero anche potenziare i traghetti senza produrre questo scempio ambientale, perché la soluzione scelta, altro sarebbe stato il tunnel sottomarino, voglio dire. E poi c'è un particolare che mi hanno raccontato degli amici esperti di queste cose, degli ingegneri, cioè le due coste, quella calabrese e quella siciliana, si divaricano perché stanno su una zolla un po' ballerina di un centimetro l'anno. E il ponte costruito con le tecniche più d'avanguardia esistenti potrebbe avere una flessibilità al massimo di 2 metri, significa che fra 2 secoli lo dobbiamo rifare di nuovo perché ci sarà crollato sulla testa. Allora, se questo è un modo per cui i nostri governanti, voglio dire di destra e di sinistra perché è una vecchissima storia, vogliono passare alla storia come gli egiziani con le piramidi, devono trovare un'altra idea. Sentiamo invece, a proposito di tempo, di cui parlavamo, tempo meteorologico, il colonnello Giuliacci, colonnello Mario Giuliacci, intanto ben trovato oggi, colonnello. Senti, riesci a sintetizzarci, colonnello, proprio in 2 minuti, se quello che sta arrivando, questo sole un po' pallido così, alle prime armi, diciamo, è definitivo, la primavera sta arrivando? Vogliamo essere finalmente a un punto diciamo di svolta? Questo, che oggi è ancora bruttino al sud e sta piovendo ancora in questo momento sulla Puglia, sulla Calabria, su parte della Sicilia, un po' qua e là sull'Abruzzo, sul Molise, ma anche lì il tempo è in rapido miglioramento, quindi a parte le nuvole che vediamo anche al nord, ma le nuvole non fanno male, non consentono uscire di casa, diciamo, a parte un po' di nuvole, tranne quella di Fantozzi, il tempo è in deciso miglioramento. Cosa possiamo dire? Che la prossima settimana avrà un segno senz'altro diverso rispetto a quello che abbiamo visto. Sarebbe passato. Ora, che dici? Sì, certo, direi che senz'altro sarà una settimana con bel tempo, temperature gradevoli, solo 2 giorni, lunedì e mercoledì ci saranno 2 perturbazioni, quindi 2 passaggi nuvolosi ma con pochi fenomeni, quindi voglio dire tutto sommato saranno... Ci stiamo avviando. Ecco, sì, diciamo sarà una settimana senz'altro gradevole. Sì, cappotti e cappelli nell'armadio, allora possiamo già archiviare? Per il momento sì, non metterle via definitivamente. Non sotto chiave, perché con la cassaforte. Senz'altro tra marzo-aprile ci sarà qualche altra occasione in cui il freddo ritornerà alla primavera. Ma tu ce lo dirai prontamente e ci avvertirai. Con certamente, ci sentiamo sabato prossimo, allora. Ciao Roberta, grazie a te e agli ascoltatori. Buongiorno. Grazie, ciao colonnello Giuliacci. E così abbiamo capito che insomma un po' più sorridenti possiamo, anche questa è una notizia positiva, se vogliamo ci accontentiamo almeno anche di questo del tempo. Valeria Della Valle invece, docente di linguistica italiana all'Università La Sapienza di Roma, che mi fa sempre compagnia poi in chiusura di trasmissione, c'è ancora un po' di tempo però, il numero verde è 800240024, vorrei riuscire a sentire magari ancora un ascoltatore, ma vediamo. Valeria, la tua concetto, espressione, parola della settimana, su cosa ti vuoi soffermare? Ma direi che forse sarò banale, ma la parola sulla quale mi voglio soffermare è proprio la parola donna. E ci piace. Sì, mi piace, mi sembra un momento adatto. E però naturalmente sempre osservata da un punto di vista linguistico e non certo. Solo. Allora partirò col ricordare, anche se tutti lo sappiamo, che la parola viene dal latino domina, che significava padrona, signora, però purtroppo ha perso un po' di questa padrona, signora della del solo focolare. Della casa, ecco, solo della casa e forse neanche di quello. E poi da un altro punto di vista, ma questo io lo prendo in senso positivo, vorrei ricordare che per secoli e secoli la parola donna nei dizionari della lingua italiana è stata definita come la femmina dell'uomo, che mi sembra molto riduttivo, parziale e sbagliato, come la famosa costola, insomma. Infatti esattamente così, e fino agli anni 80 e quindi fino a quando un vocabolario, non lo nomino perché gli sono troppo affezionata, ha definitivamente fatto piazza pulita di questa antica definizione. Però meriterebbe di essere nominato anche solo per questo. Sì, nominiamolo, guarda, anche perché è un vocabolario di grande importanza, è quello che fu edito tanti anni fa e poi ora sarà riedito dalla Treccani. Ecco. E finalmente la donna è diventata nella specie umana l'individuo di sesso femminile, naturalmente nel momento in cui ha raggiunto la maturità anatomica e l'età adulta, mentre l'uomo è l'individuo maschile del genere, esattamente, quindi con piena parità. Ma vorrei ancora aggiungere, da un punto di vista linguistico che espressioni come sesso debole, gentil sesso, bel sesso, che nei dizionari erano riportati in modo serio, referenziale, finalmente nei dizionari di oggi sono riportati solo come usi scherzosi, no? Solo se facciamo dello spirito possiamo usare davvero queste espressioni. E per concludere, come dicevo, in senso positivo, arrivo al punto. Insomma, una frase come, citata spesso, citata nei dizionari, una frase come le parole sono femmine, i fatti sono maschi, beh, oggi può essere citata solo come relitto, direi, proprio di un passato. Relitto del relitto, direi. Ecco, è un relitto che vogliamo citare solo come scherzo e poi addirittura, perché riflette appunto concezioni, usi linguistici che sono definitivamente superati o che vogliamo considerare definitivamente superati. E poi, insomma, le parole vogliamo che non siano solo femmine e i fatti non siano solo maschi. Naturalmente, una commissione delle cose, le parole sono bellissime, non vivremo senza parole, ci vogliono i fatti, ci vanno gli uni gli altri e li facciamo entrambi. Grazie Valeria Della Valle. Grazie a te. Grazie, con questo estremo dono della sintesi, Valeria, che la costringo sempre quasi ad avere l'asma alla fine da tanta velocità in cui è compressa negli ultimi momenti. Michele Ainis, come ci lasciamo? Così senza rancore, ovviamente, come si dice, ci facciamo, no? Senza rancore, però io sarei meno ottimista della nostra collega che parlava poco fa rispetto all'evoluzione linguistica, cioè vuol dire c'è un sessismo anche nella lingua senza italiana. Dubbio, ne parleremo prossimamente con Valeria Della Valle, anche solo per esempio dei termini professionali che continuano a essere al maschile come se per la donna fosse gentile concessione, ma nella mente, nell'immaginario umano, insomma, certe cose sono solo da maschi e con qualche declinazione anche plurale di tutti. Anche il plurale, certamente, certamente. Le donne devono ritenersi sempre una parte specificata dell'insieme del genere umano in senso lato, che però finto neutro in realtà è maschile, ecco, le donne è sempre un po' l'appendice. Detto questo, ho scoperto che però, dato che questo libretto con cui abbiamo iniziato la trasmissione, che ho pubblicato, si chiama Chiesa Padrona e donna significava padrona, e allora una seconda edizione potrà essere Chiesa Donna. L'aspetto, Michele, questa cosa sarebbe una bomba. Ti ringrazio moltissimo, Michele Ainis. Grazie a voi che siete stati in mia compagnia, in nostra compagnia, che siete intervenuti. Chiedo scusa naturalmente a quelli che non hanno trovato spazio. Roberta Giordano vi auguro uno splendido fine settimana, una magnifica giornata della donna, a tutte le donne in particolare, ma anche ai compagni, agli amici, eccetera. Io vi aspetto sia domani che domenica alle 19 con Storielle, naturalmente appuntamento il prossimo sabato alle 14.